Marino, Marino. Attenzione Gian Maria! Attenzione Gian Maria! Sorry! Sorry! Gian Maria, aspetta un attimo! Gian Maria! Beto, buonasera! Buonasera Gian Maria! Giulia, ero al telefono! Me lo immaginate! E allora, cosa ti racconti oggi? Come ieri! Soltanto un po' movimentata. Cambia mai, sempre la stessa cosa, lo dico io, guarda. E fai cambiare qualche altra volta, no? Oh, ciambada, ciambada, che la nenne tu rendi, se... Sei agito, un po' carino movimentata, più da rimani. Ehi, dai, ti fa bene, là. Almeno fai allenamento, guarda, così tu sei sempre impegnato. Da, fa bene tu. Cazzo, ti vogliono bene, fa ammattirti così. Infatti, a manco fai allenamento, voto. E cosa vuoi fare? Ma. Niente, cosa vuoi fare? Niente. Certo. Non si può fare voglia, per carità. Ma. No, io già sono, oggi sono uscito, sono andato anche alla briscola. Compravo un rubinetto, perché avevo un rubinetto che sta perdendo in campagna. Dovevo scendere a piazzarlo, ma non avevo voglia, allora scenderò domani, me lo piazzo e così via. E boh. Ma sono stato quasi un'ora a Pappagani, che era la fila veramente a 30-60 a fondo a tutto. Fatto bene. Ah, io ieri mi sono preso questa lampada LED con la lente dalla Lido. Cosa hai preso? La lampada LED alla Lido con la lente. Quelle che fanno luce. Che pensi ne fanno? Ma anche la lente, no, ce l'ho precisa, l'avevo presa mia figlia, però quella è di mia figlia che c'era mia. La giubbotta. Quando devo fare che cosa, ma attendo la ruzi e ci vede più bene anche. Io ne ho una in campagna, una qua, di quelle lì, a lei. Sta fanno un bel di luce, fanno, un bel. E lui che fa quelle lì, adesso me l'hanno messo anche una in bagno adesso. Cazzo, ma sai quanta luce fa, cazzo. E poi proprio bella, bianca, che è un bombone. E adesso mi devono piazzare un'altra in cucina. È gialla che sta di cucina, non si capisce, era poco precisa la lista di bagno. A Marco Fego, cazzo, di cose. Questa non si vede, guarda. Io questa qua è con il braccio, la lampada. E c'ha la lente, a voglia sì, ma non mi pongo a travagliare, mi pongo, che devo vedere bene, mi pongo la lente pure. Vanno bene, vanno veramente bene, c'è un bel cazzo, vedi lì, guarda, un cazzo, è tutto la cazzo. E adesso mi devo piazzare in cucina. Perché il bagno me l'aveva piazzata quando non avevo finito il bagno nuovo, no? Adesso me l'avevo sempre detto anche una per cucina. E infatti, se proprio si deve piazzarmi. Dopo ho preso anche le finestre, di quelle che aprono verticalmente, no? E ho preso una del bagno, una di cucina, e più la porta grande abbiamo ordinato. Sempre di arrivare così giorni. E mi piacerà, quindi per fare tutto il lavoro lo stia stando anche la Calario e quella all'estero. Meglio così. Non è andato, bisogna ciambare, bisogna. Bisogna ciambare ogni tanto. E poi posso fare un posto pure. Per fare un bel giudizio. E non mi sono avvicinato. A me lo si vede che era abituato a fare ai soldi gialli, ragazzi, per carità, ragazzi. Fa caffè, ragazzi. Ma tu, dice a lei, c'è lei che prende la bianca, che è un perché devi prendere lampadine fredde. Quelle lampadine fredde sono bianche, sono. Infatti io ce l'ho anche in camera di mia figlia, qua ce l'ho. E poi ce l'ho in cucina, in sala, in soggiorno, quasi in tutti. Nell'andi te le ho messe gialle, le ho messe. E infatti. Vado bene, vado bene. Che bisogna. Anche sulla scala ne hanno messo una di quella a letto. Ah, già canta l'usi fatto. E canta, e gira una le cambiamo tutti anche sulla scala. Perché rimane più bianca, capito? Poi sono tutte a luce fredde, per cui sono migliori, capito? Io all'entrata nel portone ce l'ho bianca. Che faccio un bel di luci, vado. Ce l'ho una di riserva. Quando se ne vuole già una, si pongo una delizia e poi le torno a comprare. E faccio così, faccio. E sto mettendo a tutti quanti così. Ma infatti, costano, però sono migliori, là. Sono molto migliori con le ali di luce fredda, capito? Certamente che vediamo poco con le ali, invece vediamo di più. Infatti, no, io ce le ho... No, da parecchi anni le lampade a LED ce le ho, anche se sono gialle, sono a LED, sono. Consumano, quasi nulla non consumano. Ma non mi piacciono le gialle, ragazzi. Non mi piacciono. Non bianche mi piacciono di più. Mi salta di più, ecco, si pulisce. E poi lo scalda la cosa qua, il caffetto, no? E tu metti le luce e scalda la pellicola. E scaldando prima o poi si pulisce facilmente, no? Oh, io ce l'ho nell'andito, ce li ho quelle gialle. E nel coso. E in camera. Poi le altre sono tutte bianche, sono. Ce le ho tutte bianche. Vabbè Giovanni, dai, ci risentiamo domani che mi sociamenti. Ci risentiamo domani, se andrà tutto bene. Andrà bene, stammi bene Giovanni, alle prossime. Ok, ciao. Ok, ciao allora. Boh, finalmente, saluto di casa, ci siamo domani, se tutto fa brodo. Ciao. Ciao Giovanni.